Cari amici di Runtime Radio, bentornati a questa meravigliosa trasmissione che si chiama oggi. Finalmente, ragazzi, siamo... gli assets che anni sognavamo, gli asset quelli genuini, quelli della qualità, mamma mia. Esatto, esatto, quindi bentornati a OGM che quest'anno... Aspetta, Walter, tutto a posto, sì. Cioè sei? Sì, io sto pensando, okay, che Carlo Vanzina nella tomba è fiero di voi, non so che altro dire. Ma mica solo lui. Bella, Natale su un podcast. Esatto. Natale in podcast, esatto. No, Carlo Vanzina, pure lui si sta rivoltando, figurati. Il livello raggiunto stasera. Francesco, tu stai mangiando, tu mangia? Lo dovevamo fare, comunque era una cosa che ci eravamo ripromessi da tantissimo tempo. E quindi alla fine bentornati a tutti quanti ad OGM, che quest'anno, come tradizione vuole, ovviamente ha cambiato nuovamente nome e invece... Ma non è che traduzione, è che noi ci incattiviamo, spiegalo. Siamo noi che siamo sempre meno ottimisti, sempre più mortificati, melenzi. E quindi quest'anno siamo oscurantisti, però siamo giuridicamente malinformati, perché ogni tanto ci fanno notare che prendiamo qualche abbaglio, è ma vero, secondo me anche più di ogni tanto, cioè, sì, vabbè, questa è una mia modesta opinione. Ma chi c'è con noi che ha qui lavorato insieme a me, insomma, lacrimente agli assets di questa meravigliosa sigla? Marco Gualdi. Grazie. È stato bello lavorare a questi assets, perché ci abbiamo pensato un sacco di tempo. Cioè, ma come mettiamo questo? E poi non l'abbiamo mai fatto. Invece adesso estemporaneamente perché è venuto proprio dal nostro cuore, anche un po' da e anche un po' dalle nostre viscere, insomma. Esatto. E siamo soddisfatti, siamo contenti di questa cosa. Francesco, Lobby Frontali. Salve a tutti. Io aggiungo agli asset il fatto che nel frattempo mi sto nutrendo. Che cosa stai mangiando? Questo ci interessa moltissimo. Una vellutata di sedano, rapa e patate con una granella di nocciole e un casino di pepe. Ma troppo bene. Anche io ho mangiato la vellutata oggi, però di zucchine. Importante questa cosa è, e ovviamente, insomma, diciamo, il fautore, l'autore, il promotore, il motore di tutto questo, Walter Sbano. Oh, buonasera, bentrovati. Io stavo cercando un attimo di razionalizzare il fatto che Lobby stesse mangiando la vellutata, perché dico, ma speriamo ne abbia due, almeno una la mangia. Ma in realtà con la vellutata c'è poco da fare. No, non è neanche lubrificante, perché attacca, tipo, non capito? Sì, è tipo una collazza, sì, è tipo, insomma. Ce l'hai almeno, non lo so, uno sfilatino, qualcosa, un grissino gigante, perché sennò non so veramente come tu possa divertirti. Il grissino gigante. No, stasera sono sfornito, dai. Mannaggia. Vabbè, fatemi salutare anche Carmine Pulcio Console. Ciao Carmine. Oh! Ciao Eo Boni. Su. Ma niente, un po' d'ordine. Stavo per chiedere pure io se c'aveva lo sfilatino speciale dello zio Antunello. Ok, bello. Per i conti, mio zio Antunello. Il pane di Altamura. Allora, ragazzi, prima di iniziare con questa meravigliosa puntata che ovviamente ci aspetta, con questa meravigliosa trasmissione che ha un po' tardato quest'anno a iniziare la sua terza stagione, incredibile. Perché anche noi siamo un po' tardati. Sì, insomma, noi siamo molto attardati. Però, ragazzi, insomma. Togliete all'inizio. No, allora, attenzione, questa non è la terza stagione, perché c'è stata la stagione zero. Che è la stagione? Qual è la stagione? No, vabbè, era per parafrasare certi personaggi. No, in realtà noi non abbiamo mai fatto un finale di stagione. Mo l'ho capito. Okay. Capito, mandato zero, certo. Esattamente stessa cosa. Però sì, l'hanno fatta prima loro. È passato tanto tempo che non ci ho più pensato a questa cosa. Che è la stessa cosa che ha pensato Di Maio. Prima o poi passerà tanto di quel tempo che la gente non ci penserà più. E invece Walter Sbano se lo ricorda. Esatto. Infatti, informazione tecnica. Nel frattempo, noi sotto come background abbiamo il background di Videoludica. Così tanto per... Ricordiamocelo, Videoludica è tornata. Tornerà. Scorsa settimana è mercoledì prossimo live, attenzione ragazzi, forse sì, perché dobbiamo riprendere le fila del discorso, no? Sì, perché c'è prossimo c'è... intendi fra due giorni o se No, questo mercoledì prossimo, questo che arriva con la puntata, la next gen della Poracidudine versione 2 o parte 2, insomma. Parleremo di quello che abbiamo visto, insomma, da parte di PlayStation, e poi ci sono anche altre notizie bomba, quindi poi ne torneremo. Ma diciamo che OGM, sapete, è quello che questo contenitore dove dentro noi mettiamo un po' tutto. prevalentemente mettiamo la politica o il malcostume, insomma, diciamo tutto quello che ci fa incazzare dal punto di vista civico. Retti. Però ragazzi, ci sono anche un po' i cazzi nostri. Quindi guardi, tutto questo arco condensato, non ci rompe i coglioni, insomma. Che ci racconti? Che ci racconti? Non so cosa raccontarvi, mi è preso un po' alla sprovvista, pensavo che non dover dire nulla. Vabbè, questo. Allora questo, tagliamo questa parte dei cazzi nostri. Sì, non ce ne frega niente. Sì, no, guarda, tagliamola, perché tagliamo quasi. Prima o poi ci arriviamo, insomma. Non mi sembra che ci siano belle cose da raccontare in maniera, o comunque cose significative e memorabili. Io direi restiamo dove eravamo a luglio, non andiamo. Benissimo. Restiamo umani. Eravamo i cazzi nostri pure a luglio. Restiamo umani, va bene. Allora, ragazzi, questo è stato un periodo interessante. Devo dire interessante perché. Posso salutare gli amici che già ci ascoltano in chat nella misura di Zio Mischi e del passaggio rapidissimo. Non so se tornerà di Peppe Rizzard, che 30 minuti fa circa ci ha salutato. Non so se poi torna. Sai, all'estremo sud a quest'ora stanno facendo l'aperitivo. È ancora presto anche per definire l'ora di cena. Quindi magari stanno preparando. Ecco. A proposito di ora di cena e a proposito di tutte le situazioni possibili e immaginabili, io vi vorrei sempre ricordare, ragazzi, qui c'è anche Girasole, salutiamo Olivia, ciao. Girasole, ciao. Ma sta ascoltando poi dagli studi, sta ascoltando da casa. Da casa sua. Ma tra l'altro so che ha brutalmente girato il link, penso, a gente che non conosciamo. Che non conosciamo e che non vorrebbe ascoltarci. Che non vorremmo soprattutto conoscere. Questa. Se si forse incrementano le quote rosa, non sarebbe una cosa ci va dire, no, che gente ci dispiace. Che si pentirà di ascoltarci. Ma chi lo fa fare? Ma chi ve lo fa fare? Sono assolutamente d'accordo. Comunque, diciamo, questo è un periodo. Oggi su Facebook sul gruppo. Chi ve lo fa fare, ma fatelo lo stesso, perché noi abbiamo anche bisogno, ecco. Sta a casa sua, ci dice, giustamente. Vabbè, è importante, anche Zio Mischi vedo che interagisce. Sta sotto le pezze, praticamente, quindi sarà una puntata entusiasmante, abbiamo capito. Ah, Zio Mischi sta sotto le pezze, bravo Zio Mischi, bravo. Si scopre addormentarsi mentre ci ascolta. Assolutamente importante. Insomma, la prima grande novità, ragazzi, in questo periodo in cui è successo di tutto, il Covid si era assopito, ma poi si è risvegliato. È andato in vacanza, adesso è tornato. È andato in vacanza insieme alla gente. Non c'era Covid. Che cosa è successo? Niente. È successo che noi abbiamo cambiato nome, ma anche logo, perché cioè nella nostra tradizione noi dobbiamo cambiare, siamo cangianti, siamo delle persone che si trasformano, no? E questa volta Me lo cacci Davide Gatti, cioè io sto guardando Happy Days, noi ci facciamo il mazzo quadrato per gli ascoltatori e lui che cosa ci esatto. Sto guardando Happy Days, facciamo forse gli assets non... dal vivo, niente, lui ci sputtana così con un Happy Days qualsiasi. Comunque tanto Rizzard sta a fare l'aperipizza. Rizzard sta di aperipizza, bravo Rizzard. Io invece stasera ho mangiato come un assassino. E queste sono cose. Un assassino, esatto. Sono cose che dicono. Senti, ma l'hai fatto al forno o l'hai fatto? Come l'hai cucinato? Sono curioso. Non lo so. All'acqua pazza. Vabbè, comunque, torniamo alle nostre trasformazioni. Anche grafiche. Avete visto il nuovo logo? Bellissimo. Vi è piaciuto? Fatecelo sapere con i commenti qua sotto in chat. Scrivetevi, ma quanto è bello questo nuovo logo? Chissà chi l'ha inventato. Cioè, esatto. Ma perché, soprattutto? Chissà chi è l'autore. Cosa rappresenta? È un'associazione per delinque. Ma mettiamola così. Ma perché fucsia? Ma perché no? Io l'avrei fatto verde per instigare la calma, ma non dobbiamo essere calmi qua. Qua dobbiamo essere, appunto, oscurantisti giuridicamente, male informati. Bravo Francesco. Quindi, infatti, questa puntata come si chiama? Questa puntata si chiama Il Partito della Rivoluzione Fucsia. Perché noi diciamo, qui oggi un po' No, scusa, prego, dicevi Walter. Perché da oggi saremmo anche un po' un partito politico, insomma. Esatto. Andiamo a proposito di tutti i trombati, ma magari ne parliamo dopo. Ma sì, perché insomma, ragazzi, bisogna dire che non è che noi possiamo stare sempre lì a raccontare agli altri come si comportano, a giudicare dall'alto della nostra, come posso dire, dal nostro piedistallo, è come tutti quelli che fanno sempre opposizione, dicono no. E anche noi prima o poi ci dovremmo prendere le nostre responsabilità. Dobbiamo scendere in campo. Giusto. E quindi abbiamo fatto Partito della Rivoluzione Fucsia, che è un partito di centro-sinistra tendente all'estrema destra. È importante, esatto, questo, che insomma, con un pizzico di legge del BCTQ. Dice... Certo, quello è strizzare l'occhio, strizza l'occhio al gender, anche al gender e alla dittatura, a volta, esatto, alla dittatura gender, che poi quando è il gender che ti strizza l'occhio, non so, poi dopo lì bisogna prima vedere, poi succede, però dipende dal gender, dipende sempre dal gender, sì dipende dal gender. Sentivo sotto Puccio che provava a dire qualcosa. No, mi avete ricordato. Sì, non è che Walter si sente attratti, è che in effetti parlandogli sopra noi Skype lo taglia, scusa. Quindi cerchiamo di andare lui che viene tagliato in ordine, perché in ordine. No, e vabbè, perché lui c'ha la connessione più debole, c'ha la 1 megabit al secondo, sì, soprattutto gliela tagliano a casaccio nell'arco della settimana. Sì, tra l'altro, sì, vabbè, queste storie tristissime, però insomma, lasciamo perdere. No, stavo dicendo, potremmo fondare il Partito Fascista Democratico per l'Inquisizione Moderata. A 5 Stelle. A 5 Stelle. All'epoca non c'era quando... Ma anche il termine socialista all'interno, mi spiace, non possiamo... No, hai ragione tu. Perché deve essere sempre omnicomprensivo. Quando io dico siamo un partito di centrosinistra tendente all'estrema destra, io dico acchiappiamo tutto, no? Capito? Cioè, nel senso... Che poi è un po' quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, diciamoci la verità, no? Il Movimento 5 Stelle è andato in piazza, ha preso 5 cose che andavano bene per tutti e... e tutti... Onestè. E poi alla fine sono finiti a far governo col PD, insomma, e questa è un po' una cosa che diciamo e prima con la Lega e sono finiti ad essere subalterni del PD, perché ho come l'impressione che da domani mattina Zingaretti qualche rivendicazione la farà. Sì, però la differenza è che quando hanno fatto il primo governo Conte, in cui la Lega arrivava come, diciamo, terzo classificato, perché ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle vinse le elezioni non avendo la maggioranza, il PD era il secondo partito uscito dalle urne e la Lega era la terza. Quando c'è stato questo sodalizio giallo-verde, sostanzialmente Salvini ha immediatamente sopraffatto l'alleato di governo e ha cominciato a fare il bel cattivo tempo. Quando poi c'è stato il governo che si è chiamato quello giallo-rosso, quindi il Conte 2, a differenza di quello che ha fatto Salvini, il PD è stato particolarmente remissivo, ha abbassato un po' la testa e ha permesso, come dire, al Movimento 5 Stelle di rientrare in certi ranghi. Però come l'impressione che da domani qualcuno che sia, che senza fare nomi, uno che parla un po' come Paperino, secondo me da domani in poi qualche cosa rivendicherà, perché i numeri sono decisamente diversi da quelli di 2 anni fa, ma di brutto. Ragazzi, è divertente questa cosa, voglio un parere di tutti quanti, no? Cioè, il partito dell'onestà, che alla fine è andato a governare con tutti, cioè, penso, che onestamente va bene tutto. Ma poi anche Conte, secondo me l'hanno messo lì, ma secondo me a Conte di governare con la Lega glielo deve tanto il culo. Infatti, come gli hanno levato la Lega di mezzo, ha cominciato a tirare fulmini e saette, palle di fuoco. Questo fa un recap, insomma, di questa cosa. Però è divertente il fatto che veramente persone come Di Maio, che no, le poltrone, che schifo, dimenziamo i parlamentari, però piuttosto di scrostare da lui stesso, insomma, ha fatto veramente i governi con chi che sia. Ragazzi, Di Maio ha dimostrato la validità del detto Francia-Spagna basta che se magna, cioè, malgrado fosse quello che contestava questo atteggiamento agli altri. L'ultimo meme che è uscito, credo, a ridosso, insomma, del referendum, era quello di Di Maio in auto blu, in cui veniva citata la sua frase del 2013: il giorno che mi vedreste su un'auto blu, linciatemi. E direi che, insomma, possiamo andare a linciare. Ma sarebbe il caso, voglio dire, il Movimento 5 Stelle è riuscito, io lo chiamo il partito degli ipocriti, perché sono riusciti a rimangiare ogni singolo proclama di quando loro erano all'opposizione, di quando loro argomentavano a vaffanculo nelle piazze, se posso usare questo termine, loro, non mio, sono riusciti a smontarli tutti uno per uno, a contraddirli. Non c'è una cosa che fosse un loro caposaldo che non hanno invertito nell'arco di questi 2 anni in cui sono saliti al potere, ma non ce n'è uno. Anzi, mi fareste contento se me ne trovaste qualcuno che non hanno ancora smentito. Beh, però dai, alla fine hanno portato insomma all'onore della cronaca un referendum costituzionale per l'abbattimento del numero dei parlamentari, che è stato il loro caposaldo, come se fosse veramente quello, cioè il problema, lo sapete qual è? È che tutta la demagogia che hanno fatto, quella che sono riusciti a portare a termine è stata la più dannosa, cioè nel senso... No, la più dannosa sarà se quella che se riescono a portare a termine è la diminuzione degli stipendi dei parlamentari. Lì allora avremmo meno deputati, meno senatori, ma più facilmente corrotti. È certo. È stupenda questa cosa, ragazzi. Cioè, c'è un motivo, no? Per cui, vabbè, comunque non entriamo un po' in questo discorso che non volevo. Comunque, vabbè, al di là di tutto sto grosso recapone, alla fine siamo arrivati, insomma, oggi che si è andato a votare per questo benedetto referendum modifica costituzionale senza quorum, dove tra l'altro tutto sommato è andato a votare anche un numero di persone superiore a quello che mi aspettavo. Sì, sì, circa il 54%. Alla fine non è stato male. Dove ha vinto male, ovviamente, il sì. Che era decisamente scontato. Si sapeva, però, perché oramai, cioè, non vai a fare un po' un discorso serio alle persone, insomma, sta cosa. Però tutto sommato ha vinto, diciamo, cioè, diciamo che no, se l'è venduta cara, diciamo che alla fine mi aspettavo uno sbilanciamento superiore, no? Però insomma, questo, ecco, facciamo prima un primo commento su questo, poi andiamo sul resto che magari è un po' una cosa un po' più articolata. Partiamo da questa questione del sì. Francesco, tu come, cioè, nel senso, cosa ti senti di dire alla gente? No, che è andata a votare? Ora dirò una cosa impopolare, ragazzi. Io in realtà ero abbastanza favorevole al taglio dei parlamentari, preferibilmente in senso sagittale, perché comunque ho tendenze ossessivo compulsive, quindi mi piacciono le cose simmetriche, quindi l'ho detta, ragazzi, mi dispiace, non so quanti saranno favorevoli a questa cosa che ho detto, però. Cioè, tu li avresti tagliati sopra o sotto la vita? Non ho capito. In senso sagittale, no, in mezzo, capito? Cioè, proprio in mezzo, perché a me piacciono le cose simmetriche. Se facevi in senso coronale, tipo alla pancia, no, non era simmetrico, no. Sì, tra un occhio e l'altro, andando, esatto. Per me sarebbe stata la cosa più sensata. Sì. Infatti, la scena possibilmente che viene tagliata a metà lo disturba tantissimo a lobby. Ma perché viene tagliato per trasversale. Esatto. Non lo posso vedere. Sì. Comunque, senza anestesia, giustamente, perché è più divertente. Beh, vabbè, questo, se c'è la Gammon, non se ne accorgono neanche. Il rapper, però. Vabbè, la sposa di Kill Bill. Sì, anche. Vabbè, ma basta, io direi che... No, la politica ha rotto il cazzo. Vabbè, ma sì, abbiamo appena iniziato. Ma oggi si parlerà di questo. Marco, fattene una ragione. No, ma noiosissimo. Puccio. Pensa ai primi ascoltatori che ci ascolteranno sentire queste cose. Puccio, dici la tua sul referendum. No, io ero assolutamente contrario, però sono diventato improvvisamente favorevole dopo aver ascoltato Lobby. Cioè, l'idea del taglio, della mozione frontale. È una questione di punti di vista. Esatto. Quindi di frame, Sbano, che secondo me è quello che è l'unico che c'ha qualcosa di sensato da dire su sta questione, né? Allora, intanto riporto le parole di zio Mischi, perché secondo me meritano di essere citate. Dice: non scherzate, non c'è bisogno della riduzione dello stipendio per farli essere più corruttibili. E secondo me ci ha visto lungo. No, sono poi facilmente corruttibile. No, lo sono senza più, cioè, più gli dai e più prendono, quindi non serve che gli abbassi lo stipendio per renderli più corruttibili. Il concetto è che anche se guadagnano bene li corrompi lo stesso. Il concetto è quello. Costa di meno. Ed è proprio questo che a me ha fatto riflettere. Io l'ho sempre detto, anche se non siamo stati in onda in queste settimane, però l'ho detto nei gruppi, su Telegram, la eccetera. Gente lo sentiva, Sbano, la gente lo sentiva. Io sono per il no, io ho votato no, perché mi sono chiesto da dove mai potesse arrivare questa convinzione dei sostenitori del sì, soprattutto in ottica 5 stelle, diciamo in orbita 5 stelle, cioè il concetto che se riduciamo il numero di parlamentari, quelli che restano sono l'offerta migliore possibile. Secondo me, e l'Italia ci ha dato tanti motivi per riconoscersi in questa chiave di lettura, se tu tagli i posti, semplicemente tagli fuori dal Parlamento quelli che sono i più capaci e più meritevoli da un punto di vista reale, ma che non sono amici di amici, che non sono persone che vengono messe su quelle poltrone da un determinato sistema. Semplicemente facciamo un esempio lampante, visto che parliamo anche in qualche modo della visione 5 Stelle delle cose. Quando nel Movimento 5 Stelle ti allontani un po' dalla linea diciamo direzionale, faccio il caso di quello che fu il senatore De Falco, che era stato voluto dopo che era salito agli onori della cronaca per aver cazziato Schettino, quando lui cominciò a prendere una posizione diversa da quella che era la linea di partito, è stato fondamentalmente obbligato a dimettersi, è stato costretto ad andare a finire nel gruppo misto. Perché se questo come, è il modo di ragionare, il 50% del resto dei parlamentari, esatto, quindi perché misto. Se il meccanismo è questo, noi dobbiamo illuderci del fatto che togliendo un terzo dei parlamentari quelli che restano saranno i migliori? Saranno quelli che abbracciano in maniera incondizionata la linea che il capo partito, che il segretario, quello che sia, di volta in volta detterà. Quindi fondamentalmente non abbiamo guadagnato in qualità. Poi farei anche un altro tipo di discorso, al di là del fatto che sono, diciamo, io sarei stato d'accordo prima di fare questo discorso un po' contorto. Il problema de fatto è che, essendo una repubblica parlamentare a rappresentanza, allora, rappresentanza maggiore è il numero dei parlamentari, maggiore è ampia la rappresentanza. Adesso voglio vedere per esempio il Sud Tirolo, Full Partai, tutti questi, ma anche le regioni meno rappresentate, tipo il Molise, le Marche, quelle che avevano già meno rappresentanti, si troveranno ad avere di fondo, insomma. Vabbè, ma poi, secondo me, scusa, poi vedrai che questo referendum lo aggiusteranno come hanno aggiustato altri referendum. Quello che, ma io ho fatto una battuta: quando il Movimento 5 Stelle si renderà conto che i primi a rimanere fuori dal Parlamento saranno i loro, probabilmente scenderanno in piazza per chiedere una riforma del Parlamento. Però lasciamo perdere. Volevo dire che secondo me, posto che io sarei stato molto favorevole al dimezzare gli stipendi a tutti i parlamentari, a parità di parlamentari, visto che si parlava, il motivo principe di questa riforma doveva essere il risparmio economico, benissimo, visto che la maggior parte dei parlamentari odierni sono dei cialtroni, dimezziamogli lo stipendio, che tanto l'autostipendio che gli diamo sicuramente non se lo stanno meritando nessuno di loro. Poi, a maggior ragione ancora, io ci aggiungo un altro dato. Rivediamo il meccanismo. Noi siamo appunto una democrazia parlamentare, quindi prima di tagliare il numero dovreste rivedere un attimino il funzionamento della legge elettorale. Ma se proprio vogliamo ottimizzare, togliamo una delle due camere, perché avere due camere che fanno fondamentalmente la stessa cosa probabilmente è l'idiosincrasia di riferimento. Lasciamo una sola camera, quindi soltanto il Senato in questo caso, e facciamolo funzionare come si deve. Ecco, quello avrebbe avuto più senso. Ma vabbè, anche qui bisogna c'è sempre un motivo costituzionale, c'è sempre una motivazione per quale diverse noi volte abbiamo un bicameralismo, quindi spaccare il bicameralismo, no, non è che si io non lo toccherei proprio, né mai assolutamente, per nessuna ragione. No, Simone, nessuno dice che devi avere una camera sola, però il bicameralismo paritetico perfetto, cioè due camere che fanno esattamente la stessa cosa, quindi si genera quella cosa che si chiama il trenino, cioè che voti da una parte, voti dall'altra, con modifiche, e quindi devi tornare alla carcere, cioè due coglioni. Cioè, se hanno funzioni diverse, come accade in altre democrazie, Stati Uniti, non dico l'Inghilterra perché lì, insomma, la Camera dei Lord non è elettiva. Vabbè, dai, sì, no. È diverso, e in Italia ci sono delle ragioni storiche precise, quindi sai, è un po' un discorso, ogni realtà poi alla fine fa anche realtà, se, come dici, in Italia metti il semipresidenzialismo alla francese, ma l'Italia è l'Italia, la Francia è la Francia, cioè, nel senso, allora ragazzi, io volevo fare questo discorso proprio, posso, diciamo, solo salutare il cuciniere dallo spaccio profondo, che ci saluta direttamente dalla cucina perché insomma ci sta ascoltando, e zio Mischi che dice che lui è una vita che non si sente rappresentato. Questo non vuol dire che dobbiamo alimentare ulteriormente questa incapacità del popolo di sentirsi rappresentato, cioè nel senso, comunque, anzi, mettere le condizioni del Parlamento di non rappresentare, cioè che è ancora peggio, insomma. Comunque, vabbè. Io volevo aggiungere, proprio a monte di tutto il resto del discorso, che a prescindere da quelle che potrebbero essere le riforme, quello che si può tagliare, ottimizzare, eccetera, io sarei dell'idea che l'attuale classe politica to cure, quindi non solo alcuni, quindi non è un discorso Salvini, Di Maio, l'intera classe politica attuale, la Costituzione non la dovrebbe sfiorare nemmeno con un dito, perché non sono in grado di migliorarla, la possono solo ed esclusivamente devastare. quello che c'è adesso probabilmente non è adatto al tempo, non è adatto a questo contesto storico, ci posso anche stare, ma questo non significa che chi adesso sarebbe chiamato a fare delle riforme costituzionali sia neanche lontanamente in grado di farlo. Quindi nel dubbio preferirei che non toccassero niente, e saluto Pier G che nel frattempo ci ha raggiunto. Bella Pier G. E guardi, tu invece per esempio cosa metteresti nel tuo programma politico? Cioè tu oggi ti candidi, diciamo così, però siccome che non hai i soldi perché ti hanno dimezzato il stipendio, esatto, ti devi diciamo affidare a, che ne so, delle lobby, delle, insomma, delle... Si affida a lobby, si affida a lobby. Affidati a me. Le lobby del gender in Italia vanno tantissimo. Poi che altri lobby ci sono in Italia che potrebbero essere? Ma quella però è Netflix. Quella è Netflix. E vabbè, però funziona sempre. Scusate, comunicazioni di servizio, noi sapete che facciamo sempre quando è necessario anche radio di servizio. Assist di Teo, gol di Ibrahimovic, quindi Milan 1, Bologna 0. E si cazzo. Ah, beh. Per far vedere che siamo una radio seria, insomma, che dice le cose in tempo reale. Tra l'altro poi dopo voglio tornare su questo argomento, perché insomma davvero. Comunque vabbè, dai. Per Milan. No, in generale sulla questione la, del calcio. La Roma, vuoi tornare? No, la Roma è cazzo, ma non è. Io invece proporrei il ponte, no, non di Messina. Il ponte potente. Non il ponte di Messina. Ponte P. Ma il ponte, anzi un ponte che unisca l'Italia alla Sardegna. Perché nessuno ci ha mai pensato? In effetti, cioè, beh, lunga un bel strada, ponte, però, eh. Quindi sai quanto lavoro, quanti milioni di posti di lavoro si potrebbero creare, insomma. E anche, morti, secondo insomma. Me è più utile un ponte verso la Sardegna che sulla Sicilia, guarda, top. Per andare al bilionaire a prendersi il COVID. Esatto. Ma forse potremmo fare un ponte tra Sicilia e Sardegna, forse, ecco. Quello dopo, sempre dopo. Lì devi fare ad agenziale, quella sotto. Che sale su e poi ritorna giù, no? Però ragazzi, perché con tutto sto mare intorno, ma che ce dobbiamo fare? Certo, ma poi la tangenziale a Roma la stanno a buttare giù, sì o no? Caspita, non c'è rimasto quasi niente. Se va a stazione Tiburtina non c'è più la sopraelevata. Che tristezza, ma mi manca momenti tipo Fantozzi non potrà più prendere l'autobus al volo. Come non abitava a Roma? Abitava a San Giovanni. La voglia, sulla tangenziale. Vabbè, comunque ragazzi, detto questo, concludiamo insomma l'aspetto politico, perché poi dopo ci sono veramente tante belle notizie, con il fatto che non è che si è votato solo per il referendum, no? E esatto, questo è il bello, insomma. In questo periodo dove, diciamo, la politica, diciamo, la brutta politica in qualche maniera ha continuato ad agire in una certa maniera, anche nonostante il Covid, quindi abbiamo visto negazionisti, abbiamo visto insomma gente cavalcare le peggio stronzate. Secondo me qualcuno si è reso conto, insomma, che c'è qualcosa che puzza in tutto questa nuova politica salvifica, appunto. Vabbè, non c'ho avuto il tempo di farmi la doccia, però non è che lo devi dire davanti a tu. Salvinifica, esatto. Che poi è la stessa cosa del Berlusconi, perché l'italiano fondamentalmente, ragazzi, c'ha bisogno di quello al quale delegare tutte le proprie responsabilità. Cioè io non voglio sapere un cazzo, comanda tu, comandami e comanda su me stesso. E io obbedirò, capito? Ciecamente. Almeno io non devo star lì a pensare, capito? Ci devo ragionare. E non è colpa mia dopo se le cose vanno a pensare, esatto. È colpa tua e poi ti appenderò a testa in giù in una piazza anche di Milano, giustamente, insomma, perché giustamente. Poi è questo, no? Perché a Berlusconi fondamentalmente è successo questo, no, non fisicamente, ma un po' tutto, però insomma ha rischiato il linciaggio, come l'ha rischiato Craxi, come, perché questo è il nostro paese, no? Cioè noi ci affidiamo a Dio onnipotente che mette le sue mani su di noi e salvo buon fine, con la clausola del salvo e anche buon sotto fine. Di noi è importante e anche dentro di noi a volte non solo le mani e quindi è successo che ci sono state insomma elezioni regionali dove si aspettava un plebiscito trionfale della Lega, diciamo, cioè sì, ma loro stavano puntando al risultato secco, al 6-0, al 7-0 con il referendum, ma invece le cose sono andate un po' diversamente. Vai Smano, dici. Come sono andate? Intanto l'obiettivo, il faro era puntato sulla Toscana, perché chiaramente Roccaforte rossa storicamente, c'era questa candidata, questa Ceccardi della Lega, che voglio dire, si era già nei mesi scorsi distinta per tutta una serie di gaffe, a cominciare dalla mascherina ricamata, non so se vi ricordate. Sì, perché siamo personcine educate. E, si loro speravano di avere un plebiscito di elettori centrodestra che avessero fatto il ribaltone in Toscana, ma già negli ultimi giorni si capiva, insomma, che forse non erano poi così sicuri, tant'è che la Ceccardi, per mettere le mani avanti, ha detto no vabbè, ma se perdo le elezioni torno al Parlamento Europeo, quindi già questo dà la misura del personaggio. Però detto questo, ci volevo venire, quindi, esatto, neanche ci volevo venire, un po' come è successo pochi mesi fa ad una sua esimia con l'Emilia Romagna, il capine, cioè, a Borgonzoni hanno messo lì, hanno detto vabbè sì dai. Tra l'altro è successo. Posso fare un inciso? Scusa, ti interrompo un attimo perché mi è venuta in mente una cosa che poi me la dimentico, quindi sono costretto a fare questa cosa anche se non è carino. E voi sapete che mi pare nel Lazio, non mi ricordo dove, ma insomma c'è questa tizia della Lega di colore, lei è un ex, cioè lei è adottata, quindi è insomma diciamo un ex emigrante con tutto quello che ne si è connesso, che ovviamente si è candidata con la Lega, no? E poi è stata riempita, diciamo, di insulti anche da parte di quelli del centro-sinistra, insulti ovviamente sempre di tipo razziale, no? Perché poi oggi... Qui il centro-sinistra? Sì, sì, perché oggi alla fine comunque il social ti porta a questo, cioè quando ti esprimi sempre col disprezzo, sempre con la rabbia, sempre con lo scontro, no? E quando non sai cosa dire, come offende una persona, la offendi sempre sulle cose più palesi, no? Anche quando in teoria tu culturalmente non dovresti avere questo tipo di atteggiamento, no? Dovresti comportarti in una maniera completamente diversa, però è successo anche di questo. Però dall'altra parte voglio dire una cosa che è abbastanza significativa. Secondo me una persona che, per quanto adottata legalmente, tutto quello che vi pare, che magari è comunque, si sente italiana, sente parte integrante di quello che è, aderire a un partito che fino all'altro ieri diceva che chi se ne frega se i ragazzini come lei, perché questo è che secondo me la gente perde proprio il controllo, il contatto con la realtà, i ragazzini come lei potevano tranquillamente affondare dentro i barconi e affogare tranquillamente. Cioè, questa cosa non è soltanto un po', come posso dire, una sorta di tradimento delle tue radici, di tutto, ma è anche un po' un atteggiamento infame, perché è come, capito, quelli che se legavano ai capò, capito, all'ebreuccio, esatto, che se legava al capò perché diceva oh, meglio sta col potente e fa il leccaculo piuttosto che rischia di morire. Questa è una cosa che me, e siccome che non è il primo caso nella Lega, perché poi chiaramente lei non si rende conto, oppure si rende conto ma non gliene frega niente, che non è che l'hanno presa per i suoi meriti politici a questa, capito, che probabilmente non ne ha, cioè io adesso non la conosco, non voglio giudicare, ma sono abbastanza convinto di questo. L'hanno presa perché è negra, cioè quindi l'hanno messa lì per far vedere le quote rosa, tra virgolette, cioè le quote razziali, per far, esatto, vedere. Noi non siamo contro i negri perché ce l'abbiamo pure dentro al partito, capito? Cioè, è quello, tanti è amici omosessuali, esatto, è la stessa cosa. Ecco. E a me questa gente qui mi fa schifo, chi l'ha insultata in maniera volgare, in maniera becera, in maniera, ma mi fa schifo anche un po' lei, tutto sommato. Perché... una, con tutto il rispetto per lei, una ragazza di colore che si candida per la Lega non sta simpatica manco a me, insomma, vuol dire che proprio non hai i valori di riferimento. Sì, è proprio, cioè tu ricordati che ci potevi stare tu in quel momento, esatto, semplicemente perché dal punto di vista temporale quella cosa non è arrivata nel momento in cui magari in un altro momento, no? Poi ma... diciamo che, come dice un grande videomaker italiano, tu non puoi essere italiana perché sei nera, e lo dice la geopolitica, insomma, quindi non è possibile, dovrebbero ricoprire. Chi è questo video? Vabbè, poi te lo faccio vedere. Sì. Comunque vabbè ragazzi, è un po' come se facessimo l'esempio lampante del napoletano che vota Lega dopo che per 20 anni esatto. Vesuvio purga lì col fuoco, quindi insomma lo scenario è esattamente lo però stesso. Però l'Italia ha risposto in qualche maniera. Eh sì, no, ha fatto capire, non, insomma. Non così come uno avrebbe sognato, ma l'Italia ha risposto in qualche maniera, insomma. Perché... sì, perché dicevamo che in Toscana la Ceccardi proprio non ce l'ha fatta a espugnare la Roccaforte Rossa, e l'avversario Gianni in questo momento accreditato del 49 43% circa delle preferenze contro il 48,8 contro 42. In Puglia, anche lì alla vigilia qualcuno aveva provato, e magari Carmine ci può dare più indicazioni, a ipotizzare che Fitto facesse il sorpassone ad Emiliano, complice anche il fatto che il Movimento 5 Stelle correva da solo, e invece Emiliano zitto zitto il suo 46,8 e ha mantenuto, sembrerebbe insomma aver mantenuto la sua poltrona. Per ora sì, cioè non hanno ancora, cioè lo spoglio a noi stranamente, aggiungo, perché di solito sono abbastanza veloci, sta andando lentino rispetto alla media, però è avanti. Schede, poi vabbè, per farla rapida aggiungendo. Abbiamo avuto altri, diciamo, due... che stanno andando a rilento con lo spoglio, perché tra uno spoglio e l'altro muoiono di COVID anche, diciamo pure questo. Sì, anche E vabbè, poi ci sono le due roccaforti reciproche, la campagna di De Luca inespugnabile. De Luca sta quasi al 68%. Sì, roccaforti di De Luca, non del Partito, esatto, Democratico. Esatto, no, perché De Luca è da solo, assolutamente sì. E dall'altra parte Zaia, che secondo me si sta sfregando le mani, perché a questo punto andrà a rivendicare una posizione di rilievo a livello nazionale nella Lega, che è al 76,5% in Veneto, quindi entrambi inespugnabili. Ci sono le ultime due regioni da citare, la Liguria, dove Toti sta andando verosimilmente al bis, quindi verrà riconfermato governatore della Liguria con il 56%, e l'unica differenza, quindi l'unico successo elettorale della Lega, quindi l'unico posto dove la Lega ruba la poltrona al centrosinistra, sono le Marche. So che Simone sarà dispiaciutissimo di questa cosa, dove Acquaroli del centrodestra col 49% sembra stare effettivamente vincendo a mani basse contro Mangialardi, che era il candidato del centrosinistra. Però, considerando che si cercava di paventare dei risultati enormi per la Lega, effettivamente non c'è stato questo dato. Anche a livello di sindaci, ricordiamoli, si sta votando anche a Venezia, dove il sindaco di centrodestra dovrebbe stare vincendo sul sindaco di centrosinistra. Vabbè, lì Bolzano dovrebbe andare al centrodestra, Trento dovrebbe andare al centrosinistra, Reggio Calabria, cioè, secondo me non hanno neanche iniziato a fare gli scrutini, perché siamo al 31-35 fisso per entrambi, quindi sia l'uscente Falcomatà di centro-sinistra che Mini Cuci del centrodestra, e così via. Insomma, gli altri non li citiamo, se no facciamo mattina, ma insomma quello che ci interessava era il dato delle regioni. Comunque un Maradona Sbano. Qualcuno l'altro giorno si domandava: ma il movimento 3V libertà e scelta, libertà di scelta, che cos'è? Perché poi libertà di scelta sembra, capito, tipo un movimento abortista, sai, questi qua dei diritti civili degli anni 70. Invece poi mi puzza proprio di tutto il contrario sta cosa. Saranno tipo i QAnon, gli antivaccinisti. Cioè, Non mi sono informato, devo dire la verità. No, perché è parecchio che si sentiva questa cosa, me l'hanno già chiesto in tre, ma chi è sto movimento 3V? E io non sapevo manco che esistesse realmente. Mi piaci tu. In quale contesto si sono presentati questo movimento 3V? Si sono presentati, adesso te lo dico, si sono presentati sicuramente alle elezioni in Toscana. Ah sì? Bobba. E sono infatti l'ultimo partito che hanno ottenuto lo 1%. Ma hanno tanti parenti, insomma. L'1%, no, il Partito Comunista è rimasto ultimo. Ah, con che momento triste, lo posso dire, ragazzi. Qualcosa che non mi ritorna. Erano in Toscana, Veneto e Marche. Sono andato a vedere un attimino chi sono questo movimento 3V Libertà di Scelta. Sono andato sul loro sito web e credo che siano proprio antivaccinisti, eccetera. Vediamo, sì, obiettivi: abolire tutti gli obblighi di legge in ambito vaccinale, già partono malissimo. Tutelare la potestà genitoriale, a maggior ragione per quei genitori che nell'ambito dell'esercizio consapevole della propria responsabilità richiedano alle istituzioni trasparenza e doverosi chiaramente in tema di salute, cioè per la serie non voglio vaccinare mio figlio e non mi toccare mio figlio, e poi libertà di parola di tutti i medici, quindi insomma è un movimento che cerca in qualche modo... Libertà di parola dei medici, che vuol dire? che possono distanziare i medici, nel senso cercano di fare assist ai medici negazionisti, ai medici antivaccinisti, eccetera, suppongo. Credo che se andiamo a leggere tutti i loro punti, che fare con mirano all'estinzione di massa. Vabbè, raga, ci sta. Stiamo a parlare di 4.720 voti, cioè, nel senso, di troppo, però. Sì, sì, vabbè, ma sono i loro stupidi loro, cioè, ma poi guarda la faccia della tizia. Mi fa invece simpatico, perché voi lo sapete che io, insomma, c'ho una simpatia tutta mia particolare, un po' come Pucci Pucci, le mascotte, che in Toscana si è presentato il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista, cioè, nel senso, sono due scissioni, perché è un gender, lì, cioè il gender italiano e il gender generico. Allora, il partito Comunista sta con Sinistra, che Sinistra, no, scusa, ho detto la stessa. Comunque sono due partiti, il Partito Comunista e l'altro sta a destra, sta, e vabbè, no, sta con Sinistra, no, no, sempre italiana. Sinistra, sempre Sinistra. Cioè, ragazzi, se avete sentito i discorsi che fa Marco Rizzo negli ultimi mesi, una declinazione un bel po' a destra del Partito Comunista, c'è, cioè, di sicuro che è la sua, perché veramente tra sovranismo e deliri Marco Rizzo non lo si riconosce più. Però vabbè, comunque io ecco, il problema della Toscana è questo, insomma, io vedo che hanno devastato la comicità italiana, c'è una frammentazione dei partiti, c'è una frammentazione dei partiti di sinistra, tipo 25.000 voti, 26.000 voti a Toscana e Sinistra, mentre 10.000 voti al Partito Comunista, 9.000 voti al Partito Comunista Italiano, c'è, cioè, tutta una serie, Simone, anche alle politiche, non è che voglio dire ci abbiamo avuto potere al popolo, ci abbiamo avuto riputazione, ci abbiamo avuto tutte queste piccolissime declinazioni che non hanno fatto altro che disperdere i voti. Però d'altra parte, se vuoi, come dire, se vuoi fare un voto di protesta, un voto di, sai quanto ha preso il Movimento 5 Stelle in Toscana? Il 7%. Ragazzi, ma scenderanno ad una cifra un po' a livello nazionale, sono morti, quindi. Sì, sì, ma tra l'altro non so se avete notato, ieri Di Battista ha avuto un'uscita tra virgolette infelice, è andato a scontrarsi con e la notizia sarebbe esatto, no, il fatto è che stavolta gli ha imbruttito persino l'alfiere il difensore della causa 5 Stelle, che è Travaglio, che si è dovuto trovare a dargli addosso, ha cercato di toccarla piano rispetto a quello che avrebbe fatto con altri interlocutori, però è chiaro che a un certo punto ha dovuto prendere atto che stava minando le fondamenta di quel poco che è rimasto, gli ha dovuto fare il pistolotto. Ma secondo me il Movimento 5 Stelle da qui a un paio di settimane si sfalderà. Sì, ma non ci è dato la notizia. Sì, ma infatti, no. Certo, che ha detto? Lo vado a riprendere. La mamma di Renzi, le troia, che ha detto? Cioè, cosa ha detto? Quello è normale. Ma passate i link. Però passate il link, perché io sono all'oscuro di queste cose. Andiamo avanti col programma, insomma. Ok, invece a Massa Carrara, signori, vince il centrodestra, incredibile. Davvero, cioè, Massa è chi l'avrebbe detto? Anche se per un punto percentuale, quindi vanno al ballottaggio. Attenzione. Vediamo, sì, comunali, sì, se non quindi vince 50, il centrosinistra, sì. Fine, perché, insomma. Vabbè, ma dai, comunque tutto molto divertente, ragazzi. Insomma, è successo qualcosa che tutto sommato fino a qualche ora fa non ci avrei creso, come dicono quelli in lingua latina, insomma. E questo ci fa anche abbastanza piacere, tutto sommato, perché comunque vuol dire che c'è un attimo un rimpasto, diciamo, anche una reazione, no, a tutto questo schiacciamento verso un certo tipo di politica, di strillume, perché oramai è diventato strillume. Però io invece vorrei proprio parlare con voi, ragazzi, di questa questione che in Italia ha assunto, diciamo, una connotazione quasi grottesca, ridicola, come ogni volta che succede le cose da noi, ma in Francia e in Germania in realtà ha assunto una dimensione abbastanza importante, che è quella del negazionismo, no? Cioè, oramai è nata sta cosa, perché poi, e poi vabbè, dopo, diciamo, comunque Pizzi, posso dire una cosa? Cito qualcuno che non so, no? E che le cose sono cominciate ad andare male quando abbiamo cominciato a chiamarli negazionisti anziché idioti. No, noi li chiamiamo nel modo in cui si chiamano loro negano l'esistenza di essere idioti, che diciamo. Poi, ma infatti sono così negazionisti che non ce la fanno, No, ma è che la cosa è sconvolgente, non è tanto il fatto che questi oramai, cioè, il problema è che, cioè, qui è la democrazia che presta un po' il fianco, come ho sempre detto, e continuo a sostenere questa cosa, anche se so che non è molto popolare questo modo di esprimere comunque magari la mia idea. Però il problema è che se tu giusto che tu debba concedere a tutti di esprimere le proprie le considerazioni, ma quando queste considerazioni iniziano a diventare pericolose, quindi praticamente hanno un'antistituzionalità in senso sanitario, non più neanche concettuale, perché dice ok, io sono un eversivo, sono sovversivo o quello che è, ma qui stiamo parlando di questioni di gente che dice che un virus non esiste, e quindi se incontrano in 60.000, 70.000 dentro una piazza, tutti che si baciano e si abbracciano, e alla fine, insomma, chiaramente, e non è un caso, secondo me, che oggi, anzi ieri, la Francia c'ho comunque un record straordinario dal punto di vista, e quella è tutta colpa dei puffi. I credoni di Buffi, vi ricordate? Quelli sì, soprattutto sì, sì. Vi ricordate? Vai Francesco, volevi dire comunque Simone mi ha dato a parte dopo di dire una cosa, aggiornamenti sul vaccino e come si stanno muovendo negli Stati Uniti, che prima avevo ascoltato una cosa abbastanza interessante, mi hai dato proprio l'indicazione, proprio l'input giusto, perché hai detto sanitario prima, e qui ti passo una persona che ha sanitario nel suo profilo professionale, diciamo. Buonasera. Si presenti. Lei è un sanitario? Sono Laura, la coinquilina di Dobby Frontali, e faccio l'infermiera. Ok, perfetto. No, perché... Ditemi, io non so. No, non lo so, è lui che ti ha buttato così qua nella mischia, ma... in questo modo. Non sì, te la devi prendere con lui, non con noi. No, qual esatto, è la domanda? Infatti che dopo me la prenderò sicura. Okay. La domanda, boh, che domanda vuoi fare? Doppi. No, che domanda vuoi fare tu? Che esatto, fregala, fai tu la domanda, così poi lui deve rispondere. Francesco, prendi il mano. Ok, faccio io la domanda. Fai tu la domanda. Vai, siamo pronti. Siamo in trepidazione. Tempo scaduto, la faccio io. Esatto. Te che vedi proprio in prima mano, ogni giorno, proprio come una... con proprio direttamente aveva a che fare con sì sta avendo vergogna, sta avendo molto vergogna, ragazzi, momenti di grandissima radio questa vattene via, non sei degna, via ragazzi, neanche fondo. Jack Folla queste mamma mia, oh, grande Francesco, proprio l'inserto più riuscito della storia di Runtime. Sei quasi a livello di Paolo Fraiese che prendeva a calci il tizio. quasi. Ci stiamo andando, stiamo arrivando. Bene, riprendi il controllo. Non sei degna. Pensa poteva dire qualcosa, però giustamente non sapeva niente, si ritrova. Sai che io non ho niente contro di te, però sempre per la legge delle quote rosa esci tu e lascia lei. Infatti, sì, c'è anche con questa R così simpatica. Ci piace, ci sta. Tutto sommato. Ci sta. Va bene. Quindi, insomma, dicevamo dei negazionisti. Negazionisti che in Italia, insomma, appunto, alla fine sono diventati una macchietta, che da noi sono usciti fuori i soliti personaggi. Allora, no, stiamo parlando di negazione. No, il primo è il tizio, quello col crocifisso della Bibbia, quello che è stato arrestato per il prete di Warhammer. Sì. Esatto. quel tizio quello c'è sempre, quello dove vai c'è sempre con la Bibbia, con la cosa, che poi voi sapete che lui non c'ha niente a che fare con la Chiesa, no? Cioè, no, soltanto... paese addirittura è stato scomunicato. Sì, ma è un ultrafascista di quelli, insomma, quelli pericolosi, insomma. No, no, non era proprio prete, mi sa, una cosa. No, non è prete. È solo una cosa così, una mascherata sua, insomma. Lo hanno assunto come prete e poi lo hanno scomunicato. Esatto. E poi, vabbè, ovviamente. Poi c'è Pappalardo, la Cunial, chi altro c'è? Vabbè, tutte le cose, le associazioni fasciste, che è stato bello perché nel comizio a Roma hanno detto che il Covid non esiste, ma poi che non so. Ma i negri portano il Covid? No, hanno detto una cosa peggiore, perché qui poi c'è pure la contraddizione, che il Covid di per sé non esiste, però le limitazioni alla libertà personale del governo hanno impedito alle persone di seppellire i propri cari. Cioè, sono seppelliti loro. Che sono morti di morte naturale. No, che sono morti di Covid. Perché poi. No, invece gli è sfuggita sta. No, gli è sfuggita sta cosa. Non si so perché uno non si è reso. Secondo me poi alla fine questi vanno lì anche un po' impreparati. Perché dicono: oh, ragazzi, devo andare a fare casino su sta cosa. Sì, andiamo, da famo casino. Perché è tutta rilevanza, no? Cioè, nel senso, è una vetrina per tutti oramai sta stronzata del Covid. E più che altro perché si sono sentiti anche legittimati da Salvini, che lui non ha mai apertamente fatto le dichiarazioni, però lui con sta cosa della mascherina ci ha sempre un po' giocato, no? Quindi alla fine comunque gli ha dato alibi, ah, perché dicevo, cerchiamo di raccattasse pure sti quattro imbecilli, no? Voglio dire, a fare un voto, vai Francesco. No, dicevo, ricordavo la Nodi. Mi sentite? Io? Sì, arrivi un po' in ritardo, però va bene. Okay, okay. Salutiamo Giù che ci ha appena raggiunto in chat. Ciao Giù. Ciao Giù. Ciao Giù. Giù. Non ho mai visto Giù. Ciao Giù. Ciao Giù. Comunque io volevo dire, no, infatti insulta, questo sarà uno dei Giù, problemi. Non abbiamo mai visto in chat, quindi vaffanculo, non ci ascoltare mai più assolutamente. Ma magari uno dei contatti che abbiamo ereditato dal girasole, che potrebbe ne essere Giulia. Ah, potrebbe essere Giulia. Chi sarebbe Giulia? La nostra migliore amica. Ah, quella dei disegni, delle cose, disegni, no, dei Photoshop. Ah, ok, è una che rischia una denuncia. Ah, la migliore amica di Michele, ho capito. Sì, esatto, bravo. Vedo che sbano, insomma, sempre assolutamente sul pezzo. Quindi figurati. Comunque, Francesco, diciamo, questo sarà uno dei problemi principali. Anche quando ci sarà il vaccino, cioè che si stima, o meglio, un portavoce dell'OMS si stima che più o meno lo rilasceranno, uscirà fuori a metà dell'anno prossimo, inizierà ad essere distribuito sotto Natale dell'anno prossimo, verso l'inverno. Scusa, l'anno Francesco, prossimo. Ma Trump ha detto che adesso centinaia di milioni di dosi verranno. Vabbè, siete assolutamente tutti assolutamente disinformati, anche un po' stupidi, perché poi ha detto che si era sbagliato il tizio di prima. Però Putin ha detto che loro già ce l'hanno, non ce lo danno a noi. È quello che hanno dato a Navarro. Esatto. Quello lì. È lo stesso, Però funziona. Perché loro utilizzano gli oppositori politici come test del vaccino. Scusa, è morto di Covid lui? Bravo. No, non è morto. È ancora vivo, quindi funziona. Ancora vivo, quindi funziona. Diciamo che il problema principale non sarà quando, ok, che bello, abbiamo il vaccino. Il problema principale sarà farlo prendere sto vaccino. Infatti, mai come prima d'ora, l'OMS e altri stanno assumendo psicologi, scienziati, cioè sociologi, per vedere quali sono le migliori strategie, psicofarmaci da implementare per far comunicare sta cosa. Pigliatevi sto cazzo di vaccino. Perché io però Francesco, io continuo a dire, quando noi ci vaccinavamo per il vaiolo, allora io lo so che c'è gente che non la pensa così, perché lo posso anche, ma quando noi ci vaccinavamo per il vaiolo, il vaccino non era facoltativo, era obbligatorio. E questa cosa, in un momento in cui c'è un problema sanitario, il fatto che tu non lo riconosca, perché oramai segui questo trend che le cose troppo difficili io non le capisco, quindi non esistono, questo è un problema tuo. Ma oggettivamente le organizzazioni, dal punto di vista istituzionale, non possono permettersi di decidere se tu vuoi o non fa un vaccino su un virus che costerà miliardi a tutte le nazioni a livello europeo. Quindi c'è, cioè, sto problema a me non dovrebbe proprio esistere. Dici, cioè, ma se fa, non lo fai, te fai un anno e mezzo di cattabuia. Scusa. Il solamente, se no sì. Poi dopo. Io sto parlando comunque degli Stati Uniti, perché avevo sentito comunque qualcosa relativo agli Stati Uniti. No, vabbè, l'OMS è un organo mondiale, però per dirti che comunque. Che gli Stati Uniti hanno rinnegato, ricordiamocelo, però. A renderlo obbligatorio. Che filo cinese. Gli stessi organizzazioni sanitarie statunitensi rinnegano completamente ogni cosa che dice Trump il giorno dopo. Quindi. Sì, ma infatti noi non lo conosciamo, non sappiamo chi sia. Questa è una cosa principale, che dovrebbe esserci un solo portavoce che dice una sola cosa, e non dovrebbe essere un politico, non dovrebbe essere un politico che si smentisce in continuazione, non dovrebbe essere un politico che, sì, esatto, che fra poco ci sono le nuove elezioni, direbbe qualsiasi cosa, esatto, pur di farsi rieleggere, esatto. Quindi è un'anomalia che purtroppo... ci dobbiamo convivere. E ti dicevo, assolutamente d'accordo io con Francesco. Sì, anche io sono convinto che dovrebbe essere una cosa obbligatoria. Sì. No, purtroppo. Salutiamo anche Michele De Paola. Conviviamo anche noi, perché ci convivono gli americani, però ricadono anche su di noi. Nel senso che non sono uno stato, diciamo, lo sappiamo che hanno abbastanza ingerenze esplicite e implicite dovunque gli Stati Uniti. Quindi, perché ritorneranno gli americani che proprio ieri sono andati via con le loro camicie a fiori, Serenella, ti porto il mare, ti porto via. Insomma, questo. Poi l'alternativa. Quello con la camicia a fiori è uno che c'ha l'Alzheimer, però vabbè. Chi è che c'è l'Alzheimer? Comunque Biden non c'ha l'Alzheimer. Biden non sta, cioè. Ma è la nostra ultima speranza. Non l'ho insultato in questa maniera, insomma. L'Alzheimer gli verrà dopo, però per adesso va bene. Sicuramente. Esatto. Vabbè, ce l'hanno già il presidente con l'Alzheimer, quindi non è no, che... quello è bipolare. Cioè. Comunque voglio dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto i complimenti all'aeroporto di Fiumicino come modello a livello mondiale sul protocollo Covid. Vedi come siamo posso raccontare una cosa proprio riguardo a questo? E cala, quindi mo non mi dica che c'è un amico che lavora lui c'è un amico che conosce. No, in realtà forse a voi l'ho già raccontato, penso. Si ricorda, tu forse era un altro amico, forse stai confondendo amico, stai attento. Per motivi legati alla salute della madre, una mia amica che si era trapiantata già da diversi anni con tutta la famiglia negli Stati Uniti è dovuta tornare in Italia in maniera piuttosto urgente. Lei e il figlio piccolo, mentre il marito è rimasto negli Stati Uniti in attesa di provare a tornare anche lui. E di essere deportato da Trump. Malgrado viaggiasse dagli Stati Uniti, per trovare un biglietto all'ultimo momento ha dovuto fare una cosa come 4 scali dagli Stati Uniti. Stavo a 4 scale, dicevo troppe scale. Esatto. Quando è arrivata in Italia, non soltanto a Fiumicino nessuno si è degnato di farle un tampone, ma quando poi è arrivata a casa e ha chiamato il medico di famiglia che aveva ancora in riferimento in Italia, il medico le ha detto: no, vabbè, vediamo, tu stai a casa 2 settimane a non vedere nessuno. Cioè, ragazzi, avremmo preso pure l'attestato di chi ve pare, fatto sta che mi sembra che poi in realtà di tutti questi tamponi non che se ne facciano poi tantissimi, ecco, volevo raccontare. Ti sembra tu su una testimonianza facciamo noi a livello facciamo, come fai a non fare i tamponi proprio ad un volo che arriva dagli Stati Uniti con 4 scali perché tu non fai il tampone a prescindere, lo fai quando hai tu quello che devi fare per forza è la quarantena. Da dove, cioè, teoricamente non dico da dove vieni, però quella la devi fare. Il tampone scatta dopo. No, cioè, aspetta. Non è che scendi e ti fa. Anche perché il risultato del tampone ti arriva 2-3 giorni dopo. E quello che viene raccontato dai media è che quando atterri a Fiumicino da determinate rotte, tra cui credo ci siano compresi, il tampone è d'ufficio. Cioè, scendi dall'aereo. Però lei hai detto che ha fatto una marea Aspettate. Una cosa, qua mi dicono di riferire che in realtà sarebbe inutile fare il tampone da subito. Perché la incubazione. Dall'altra stanza. Si ha vergogna di dirlo. Perché comunque l'incubazione è di 4-5 giorni, quindi è inutile fare un tampone che risulterebbe negativo. E all'inizio non li facevano i tamponi perché non c'erano i reagenti disponibili qui, perciò a febbraio non stiamo affermando che il virus lo contrai durante il viaggio, ma visto che vieni da un paese ad alto rischio come gli Stati Uniti, l'hai preso prima, potevi avercelo prima ancora di decollare. Ma scusa, ma si può tornare dagli Stati Uniti? Ma potresti averlo contratto prima di andarci negli Stati Uniti? Lei ci vive che non si poteva tornare dagli Stati Uniti in Italia. Non ne ho idea, non posso. Io volevo semplicemente dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il miglior sistema protocollare a livello mondiale dell'aeroporto di Fiumicino. 5 stelle. Poi dopo non so quello che succede. Gli amici di Sbano fanno quello che cazzo vogliono. Abbiamo capito che le leggi non funzionano. Perché ricordatevi sempre che tu ci puoi avere tutte le notizie che ti pare, ma c'è sempre la notizia più brutta della tua. Peggiore. Vabbè, comunque detto questo, l'Organizzazione Mortale della Sanità. Mortale della Sanità, è vero. Ho mandato un messaggio a un amico che lavora negli Stati Uniti. Tu potresti tornare domani se volessi, poi vediamo se mi risponde. Sei sveglio, A meno che ricordi, sì, difatti, vabbè. Cioè, c'è tornato un parente dagli Stati Uniti. Sì, però sarebbe carina fare. Era meglio se lo tenevano. Una trasmissione con le persone che conoscono bene magari i protocolli per sapere, insomma, come dovrebbero funzionare. Perché io un po' l'ho seguita sta cosa. Però ovviamente sarebbe carino capire un attimo come dovrebbero funzionare determinate cose. Io ti volevo proporre una cosa, ma voleva dire chiamare una persona che veramente è molto a digiuno di sta cosa. Perché l'altro giorno. Digiuno di che cosa? Di quale cosa? No, di radio, podcast. Vabbè. L'altro giorno nella clinica dove con le altre persone continua a esercitare mio padre, hanno fatto partorire una signora che è positiva al Covid, e c'era tutto un protocollo per il parto in questi casi. Non l'ha fatta partorire mio padre, l'ha fatta partorire un suo collega, di cui però il numero ovviamente il protocollo era che i medici stavano in un'altra stanza. No, mi ha spiegato poi, cioè, vabbè, scherzo, mi ha fatto leggere il protocollo, sì, no, però non ci si è andato lontanissimo, no, mi ha fatto leggere il protocollo perché in realtà gli è stato consegnato, ce l'hanno per iscritto. È curioso anche perché poi alla fine contraddice tantissime cose che vengono spiegate alle mamme nei corsi preparto, solo che ovviamente se sei in quella condizione tipo che non viene la cicogna. No, del padre, però, però non dovrebbe venire neanche l'anestesista un altro poco. Quindi okay. È un ma po' complicato. In che senso viene l'anestesista? No, in quel caso è venuto 9 mesi fa, che c'entra? Ma che ne sai? Questi parti gemellari in ritardo. Questo, ma è di colore scuro. Va bene. Stiamo parlando del figlio di Baresi, fatemi capire. È tornato UEA e Baresi è di nuovo. È di nuovo papà. Che storie, leggende urbane. Esatto. 42 anni, non sono mai stato cazziato da mio padre. L'ho avuta in testa soltanto una volta a 15 anni allo stadio per quel coro, perché mio padre mi ha dato uno scapaccione gigantesco e mi ha detto: cretino, guarda che li ha adottati, e tu lo sai com'è difficile fare i figli perché sei mio figlio, e quindi sai questo lavoro che cosa comporta, e prendere per il culo una persona per una roba del genere è veramente da infami. Premetto, mio padre juventino, credente, praticante, e Baresi ce l'aveva l'imboccatura dello stomaco. Vabbè ragazzi, però quando uno fa, come dire, la goliardia sportiva non fa sconti a nessuno, mettiamola così. No, infatti ci sta. Devo dire che è becero scherzare su queste cose, è sempre stato becero, perché una cosa è che tu dici magna le banane o sai queste cose un po' razziste, una cosa è che tra la fine te la vai a prendere con i ragazzini, insomma, anche se indirettamente, che non è che te la sta prendendo, però insomma, quella storia c'era tutta la leggenda metropolitana, premettendo che io alla stadio la cantavo, è tornato UEA Baresi di nuovo, la canta anche a casa sotto la doccia, quelli sono già tempi moderni, perché la prima battuta risale all'epoca di Gullit, quindi voglio dire, se si diceva che fosse almeno il primo fosse figlio suo, sì, c'era tutta una leggenda metropolitana dietro, una puttanata fotonica, però mega fotonica, assolutamente. Ci dicono che non guardiamo mai la chat, ma che l'amica di Olivia, quindi Giulia, quindi la ragazza che ha scritto prima, che poi non ha più scritto per vergogna giustamente perché ci ha ascoltato, no, ha scritto l'ultima impigliata nel rastrello, esatto, l'ultima impigliata. Allora più vicino, quindi adesso la intervisteremo, ci spiegherà i protocolli, lei non sa una minchia sicuramente di questa roba, ma voi li sapete che quando ero piccolo, vi ricordate che c'erano i fogli di protocollo, no? Credo che ci siano ancora, che ci scrivevi il tema, no? Io scrivevo il foglio di brodo di collo, insomma, no, brodo di pollo, non mi ricordo. Ragazzi, intanto ci ha raggiunto anche Stefano, che salutiamo, e approfitto anche perché giustamente Piergilo aveva detto, io mi ero distratto qui dal mega screen, il Milan ha raddoppiato ancora Ibrahimovic, questa volta sul rigore, quindi Milan 2 Bologna 0. C'è un gatto che miagola. C'è il gatto analogico che miagola. Guardi, aprigli la porta al povero gatto. Sta guardando te. L'analogico qual è? Quello rotto. Quello rotto, sì, esatto. Sì. Poi c'è quello digitale che sta lì. Strabico, sì. Vuoi che ti apra la porta, gatto? Aspetta. Quello digitale che oggi c'aveva i bastoni attaccati alla coda, perché c'ha talmente tanti peli che si portava dietro, non so cosa. Non esagerava. È una cosa incredibile. Ma nemmeno un spolverino quel gatto. Il problema dei gatti a pelo lungo non sono tanto i bastoni, ma sono i tarzanelli. Ma non spiegheremo, insomma. Sì. È successo l'altra settimana. Però, immagino. Purtroppo, anche io ho avuto gatti a pelo lungo. È un problema. I tarzanelli, che sta sempre un argomento piacevole, soprattutto quelli dopo aver parlato di notte, però, che poi esatto, infatti a zio Mischi bisogna dire, una delle prossime puntate, quando ricomincerà anche Runtime di notte, parleremo pure dei tarzanelli, che si chiamerà Tarzanello questo sconosciuto, il principe della giungla, questa cosa qua. Che scena agghiacciante, ragazzi. Tarzanello. No, quella è prima. Quella è prima. Ma che era la sigla finale, finito il programma? Esatto. Vabbè, io direi negazionisti, poi che altro, insomma, perché abbiamo visto, insomma... Ma se metti insieme due negazionisti, poi diventano, cioè... un affermazionista. Affermativisti, cioè... Certo, l'altro, io avevo notato una cosa, ragazzi, ditemi se mi sbaglio, che la Meloni, che, come posso dire, strillava meno ma ficcava di più a un certo punto, sembrava, insomma, in grosso recupero. Madonna, ha detto così, guarda che brutta immagine. Lo so. Ma non mi stupirebbe, comunque. D'altronde, secondo me, è un po' mezza opera. Ce l'aveva la zucchina. Comunque, al di là del becerume sessista che tiravamo sempre fuori, alla fine, secondo me, ultimamente ha un po' perso strada, cioè nel senso si era un po' zittita, diciamo. Ma secondo me si è messa lì sulla riva del fiume a vedere il cadavere. Ok. Perché secondo me adesso lei vorrà rivendicare una certa posizione di leadership nella compagine di centrodestra. Un po' pretenzioso. Beh, però se voi ci pensate, oggi il peso politico del suo partito è molto maggiore rispetto a quello che è il peso dei candidati che il suo partito ha messo in politica fino adesso, insomma, quindi probabilmente un riassetto ci dovrà essere nei prossimi anni, non lo so, vediamo. Io dei Fratelli d'Italia conosco solo la Meloni, fondamentalmente, cioè non so neanche chi ci sia dentro. Non lo so, ma generalmente se stai nel sistema la loro forza, però finisci quantomeno inquisito per mafia. Quindi, mondo convenienza, se tu non sai chi c'è dentro, la loro forza è il prezzo. Vabbè, niente, e questo è un po', diciamo, in questo periodo è successo talmente tante cagnare, ecco, perché poi noi ci dicevamo, ecco, abbiamo continuato a dirlo, forse abbiamo finito la scorsa stagione, no? Che post-Covid, praticamente, che è successo? No, post-Covid, diciamo, post-lockdown, a un certo punto è come se avessero liberato le gabbie, cioè hanno aperto le gabbie, le scimmie che invadevano ogni metro quadrato della nostra esistenza, gente che non andava in vacanza da 6 anni, che non vedevano l'ora di andare in vacanza, pare che praticamente per il fatto di essere stati chiusi dentro casa 1 mese e mezzo, 2 mesi, si sono ammucchiati come non si sono mai visti ammucchiate del genere, con come discoteche che dicevano fate finta di niente, fate foto, non ce ne fate video. Spiagge incredibili, non ce n'è dei covid, che poi, ragazzi, cioè quella, aperto il profilo Instagram, 110.000 iscritti solo il primo giorno, cioè, ma è andata l'ha intervistata pure quell'altra bestia immonda della D'Urso in televisione l'altro giorno. Io mi vergogno veramente, ragazzi. Io la D'Urso, raga, io penso che non bisognerebbe dire mai brutte cose, ma possiamo fare un'eccezione. Però secondo me la D'Urso, raga, i cazzotti in panza, posso dire cazzotti proprio in panza, proprio, cioè, ma no, ma è una donna pure, sì, i cazzotti in panza fino a che non sbocca proprio, cioè è una cosa, raga, è uno schifo quella donna, mi fa schifo, posso dire, è più forte di me, non dovrei dirlo, perché ma il problema non è lei, uno speaker di un mezzo pubblico. Certo. Il problema secondo me non è lei, ma è di chi gli va presso, come no, tutte le cose. Vabbè, è uguale, è lei. Il problema è lei. Barbara D'Urso è un prodotto. Perché se lei ci avesse la decenza di capire, purtroppo è un prodotto. Che è una puttana del laboratorio. Cioè, nel senso... Il problema, Simone, come dice Marco, è un prodotto ed è un prodotto che funziona. Perché se non avesse seguito, da mo' che l'avrebbero richiuso in un armadio, ma siccome non è così. Vabbè, però comunque, invece, ragazzi, posso alleggerire un pochino con un tema assolutamente più frivoletto? Bravo. Non so se avete visto il trailer di presentazione di WandaVision, che è la serie... Sì, hai voglia. Osiris, io conosco. L'ho imparato a memoria, più o meno. Ragazzi, sembra una cosa intrigante. Tra l'altro ho letto il cast. Ma cos'è WandaVision? Scusa, spiega. WandaVision è... Che voi parlate. Serie parlate di cose come se uno sapesse di che cosa state a parlare. È una serie televisiva che praticamente racconta di Visione e la strega Scarlatta. Esatto. Perché sono personaggi Marvel, non so se c'è presente. Visione, ok, non me ne frega un cazzo. Vabbè, ok, a posto. Però, ragazzi, cosa che sto pensando? La tua voce e i miei pensieri. Quello che sembra rendere interessante questa serie, al di là del setting, cercheremo di capire dove è ambientata, come, perché, se in un paradosso. Cioè, ci sono mille stranezze. Però la cosa che mi intriga è che nel cast, oltre a Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ragazzi, ci sono un paio di nomi da tenere d'occhio. Perché tra gli altri ci sono Benedict Cumberbatch, per gli amici. Vabbè, il dottor vabbè, oramai sta dappertutto. È che ovviamente quindi farà un cameo. Sì, sì. No, vabbè, però il secondo film di Strange, The Multiverse of Madness, hanno già detto che sarà agganciato. È legato a WandaVision. Ragazzi, non si capisce se sarà direttamente il seguito degli eventi che vedremo nella serie o comunque. Ok, ma insomma sto trailer che c'ha di tanto bello? Perché nel cast c'è anche Kat Tre Teste Dennings. Ah sì? E chi è? Sì, sì. Chi è Kat Dennings? Se lo sa. Ora non so se riprende il personaggio, ma presumo anche in questo caso ci sia il riferimento al personaggio che lei interpretava in Thor, che è un personaggio minore, però ovviamente riprende sicuramente quel personaggio lì. Sì, la svampita che stava con l'amichetta di quella carina, mettiamola così. Mamma mia, sì, Kat Dennings comunque è un'attrice americana che ha interpretato la serie TV che si chiama Two Broke Girls, non so se l'hai mai vista, la ragazza, le due ragazze che provano ad aprire un negozio di cupcake e gli dice sempre male, vabbè, insomma... A me non affrontare tutto questo continua a fregarcene molto, insomma. No, appunto per avere tre teste, per rimanere su discorsi beceri, insomma. No, vabbè. Invece Simone, secondo me se tu quel trailer lo vedi, secondo me sto guardando il trailer. Incuriosirà. La serie esce, è un original che esce su Disney Plus. Tra l'altro hanno anche annunciato per ottobre la seconda stagione del Mandarinaro, come dico io, quindi di Mandalorian. Annunciato da mo', uscito pure il trailer. Esatto, si sta componendo l'offerta della seconda del secondo anno di Disney Plus, perché devo dire che finora è stato abbastanza deludente se non sei un padre di famiglia che deve intrattenere i ragazzini davanti allo schermo per diverse ore, che devi far rincoglionire i tuoi figli davanti allo schermo purché non ti rompano le palle. Comunque ragazzi, invece a casa mia mia figlia Disney Plus non se l'è cagato proprio. In compenso io mi sono visto tutte e tre le stagioni dei Gargoyle, Darkwing Duck. Mamma mia, i Gargoyle, dai, non hanno messo i DuckTales originali. Ce ne sono, mi pare, 3-4 episodi di circostanza. Beh no ragazzi, il reboot di DuckTales, anche se non ci avete ragazzini, è veramente veramente bello. Veramente bello. A balla. Sì, ne ho sentito che era bello. Era bello. Anche perché, cioè, a parte che mette in continuity come la Marvel, Disney, un sacco di roba, persino gli orsetti Gummi. Non so se ve li ricordate. I Gummi. Esatto. In più, vabbè, c'è Amelia, viene reso, tra virgolette, so canonico. Darkwing Duck, che c'è anche quello su Disney Plus, una stagione sola, ma c'è Darkwing Duck, speriamo mettano le altre. Michela ci fa sapere che ha scoperto Hamilton grazie a Disney Plus, che è un musical. Il pilota di Formula 1. Poi tra l'altro a sorpresa su Disney Plus è arrivato il postino. Sì, non solo. Ha bussato due volte, immagino. Non ci resta che piangere, e anche la vita è bella. Quindi hanno comprato un pacchetto da Cecchi Gori praticamente. Vabbè, gli avranno dato i diritti americani per quei prodotti, sì. E in qualche modo li abbiamo riutilizzati a livello internazionale. C'è anche Pinocchio di Benigni, vero? Sì. Ti ripeto, credo che fossero la Miramax che in qualche modo è riuscita ad opzionare anche in Italia quei titoli. Io invece suggerisco sempre a tutti di recuperare RaiPlay, ragazzi, perché c'è tutta quella roba bella che vedevamo quando facevano la roba bella. Cioè, tutte le techerai. E io e Francesco Lobby Frontali un giorno ci siamo messi tutta la prima parte di Natale in Casa Cupiello. Ti piace per sepia. Invece io, così, per cambiare totalmente argomento, vorrei dire che quanto è bello il tema scuro di Facebook. E chi è? Hamilton. Lo so, qua fuori, ragazzi. Penso fosse Hamilton. Guarda che ti hanno scippato, secondo me ti hanno scippato dentro casa. Non so chi era, però secondo me all'anagrafe era scritto a matita. Questa è una battuta macabra. Su RaiPlay c'è la serie di Bruno Bozzetto su VIP, mio fratello superuomo. È grande, bellissimo. Hanno fatto la serie, hanno fatto. Sì. C'è un fumetto bellissimo che è uscito qualche mese fa. Sì, l'ho qualche... visto in libreria. È proprio bello. Non so come si interrompe. Scusate, ok, vai. Vai. No, ragazzi. Proprio in diretta stavo leggendo un post di Paolo Attivissimo. Hanno aperto un GoFundMe per aiutare Michael Hogan, che non so Hulk Hogan, non ho capito. No, Michael Hogan, che è l'attore che interpretava Saul in Battlestar Galactica, quindi il vice comandante. Ok. E perché sta male? Non so, sto cercando di leggere. Cioè, nel senso, sta male in che senso? Penso abbia qualche problema di salute, ha bisogno. Vabbè, ma c'ha pure 150 anni, cioè nel senso. C'ha un'ottantina. Vabbè, ho capito. Cioè. La settantina. Vabbè, pure Adamo è vecchio, però non so. Ho capito, ma non mi sembra. Cioè, investiamo le risorse sui bambini che si muoiono di fame, no? Su un vecchio alcolizzato di 85 anni. Su, dai. Bambini che si muoiono di fame non hanno fatto Galactica, mi spiace. Ho capito. Oppure sì, ma non ce li ricordiamo. Si sono morti di fame nel frattempo. Comunque del 49, non è che sia proprio esattamente così vecchio, 70 anni. È diversamente giovane, insomma. Cioè. Comunque, nel caso lo voleste aiutare. Nel frattempo, su Facebook ci hanno commentato, ed abbiamo parlato a inizio puntata del nuovo logo meraviglioso, e c'è un commento sotto, però no, è carino il commento, no, pensavo che fosse qualcuno ci insultava, invece grandissimi quando tornate sempre. Grandissimi quando tornate, gli dico sei sul pezzo, siamo già tornati, siamo lì, già tornati, siamo olive, ok, greche per di più. Vabbè, come sono sto olive? Sono greche. Sono sempre greche. Comunque, beh, mi piace il fatto che c'è gente che è un riflesso condizionato, che ci ascolta, che in fondo ci apprezza. Francesco Mogliarisi, ciao Francesco, ciao, fatto, Francesco. Ti salutiamo, così la prossima volta sentirai, insomma, che comunque ragazzi ti ripetiamo per chi te lo fa fare, però sempre se però contento, va bene, sì. Ragazzi, in tema cinema c'è una notizia che me l'ha sfuggita, ma allora scusa, me la rilanciano, posso prima che tu mi vai avanti, ragazzi, allora smettiamo di usare questo termine, il cinema è morto. Ok, ragazzi. No, cinema invece no, perché no, è morto. Il cinema è morto. No. Quello che voi vedete al cinema oramai è un'invasione totalitaria di merda, ultra intrattenimento su supereroi che spaccano. Simone, sei andato a vedere Tenet. Il cinema è morto. Non esiste più un film sensato al cinema. Non c'era realizzato. Tenet di Nolan al cinema. Ragazzi, in alternativa c'è Natale col Covid, lì come si chiama il titolo del film di Natale? Lockout all'italiana, cioè ragazzi, il cinema è morto. Poi ci sono delle eccezioni, ma sono quelle eccezioni che portano, è come la vecchia che agonizza, cioè nel senso, sì, ancora respira, è vero che ancora respira, ma è morto, diciamo, il cinema è morto, ci sta, è anche pure più dignitoso tutto sommato, è morto, porino, non è mica colpa sua. Cioè, però dai Simone, ora al di là del momento che ovviamente ha costretto le sale cinematografiche a stare chiuse, e al di là dei film di cassetta, tutti i film supereroistici, tutti questi filoni che capisco abbiano abbondantemente, come dire, rotto le scatole, però se vai, te li vai a cercare, i bei film ci sono ancora, te li devi cercare, però ci sono. No, per l'appunto stavo dicendo, hanno appena rimesso The Elephant Man di David Lynch al cinema, stanno facendo fare un passaggio nelle sale italiane. Sì, sì, l'hanno passato pure questo, che scusate, Lobby c'ha qualche disturbo al cinema. No, ma parla proprio così lui. Sì, sì, no, è naturale. È come Ghezzi, parla fuori sincro. Sì, te stavo dicendo solo che anche al cinema con gli intellettuali di Queen, aspettate un attimo, non so se ce la possiamo fare, secondo me è il wifi di... è una super cazzola comunque. Sì. Vabbè, comunque sì, bello è andato, è morto Lobby, è bello. No, ciao, essere in sync adesso, oh perfetto, ecco, hai riattivato il wifi del vicino? Laggo, sto laggando ancora, sì, meno. Meno male. Ci chiede Rizzard, ma il cinema è morto di Covid o col Covid? E questa è una bella domanda. È morto contemporaneamente al Covid. Molto. Tra l'altro, insomma, io che ho tanta voglia di vedere Tenet, ma ancora qualche remora ad andare al cinema, leggevo del fatto che per quanto abbia incassato intorno ai 200 milioni di euro o di dollari, che dir si voglia, è un film che era in qualche modo impredicato di incassare un miliardo in un contesto normale. Paradossalmente Disney ha avuto ragione ancora una volta, perché malgrado le critiche, malgrado le polemiche, malgrado tutte le obiezioni, Mulan, messo con il pass VIP a 22 euro per una visione perenne, mega, ha incassato di più, ha portato alla Disney molti più soldi di quelli che sta portando Tenet. alla Warner Bros. Però Simone, se ci rifletti, se tu vai al cinema, come nel mio caso, no, in tre, io, moglie e bambina, 7, 14, 21, sono tre biglietti, 22, me lo vedo a casa, non rischio e ho speso un euro in più. Ho capito, però inverti il paradigma. Ora, non per Mulan, perché non ci avrei speso una lira. No, ma vabbè, Mulan fa Tenet nello stesso meccanismo. Io che sono da solo, 22 euro per vedermi Tenet da solo sarebbe stato impraticabile. Saresti potuto, per dire, te lo saresti potuto vedere quante cacchio di volte ti pare invece che una sola. Ho capito, vabbè, bisogna vederla almeno due o tre volte quel film. Sì, a parte quello. È vero quello, però insomma mi sembra che questo prezzo è... Io capisco che è una media che ha un senso, però taglia fuori tutte le famiglie monocomponente o bicomponente, perché diventa... Vabbè, però tu nel caso di Disney, penso che il conto che si siano fatti è un film per famiglie, sono andando a vedere in due. Cioè, se tu c'è un ragazzino, tu non te lo vai a vedere, quindi minimo... Sì, ma non mi piace, perché so che Mulan non mi sarebbe fregato niente, insomma. Che poi sì, 22 euro, però dici tu vai in tre, ma tu ci vai a vedere Mulan perché ci porti tuo figlio. Se invece tuo figlio sta davanti alla televisione, non c'è sta tutta quanta, necessariamente tutta quanta sì, la famiglia, no, ma davanti è ovvio, alla televisione. Quindi 22 euro può essere che alla fine è comunque un prezzo spropositato, perché magari lo vede una volta sola ragazzina e tu manco tuo figlio, cioè, sta lì. Ah, oh, vabbè, però è come se fossi andato tu al cinema, ne avresti pagati 21, cioè quello è. Sì, però non è, cioè, ha meno spettatori magari a parità di cifra, a parità di prezzo. Quindi per la Disney comunque è una vittoria, perché dice tu paghi praticamente per far vedere il film magari a una persona, a due persone, il prezzo di tre biglietti, per dire, quindi... Mentre scusate, vi interrompo perché in diretta in questo momento si è appena conclusa la finale di Coppa Italia di calcio a 8. E il campo è pieno di gente alla faccia del Covid, e stanno intervistando probabilmente l'allenatore della squadra che ha vinto, che anche lui senza mascherina e tossisce, che probabilmente ha il Covid. Esattamente. Vabbè, sì, ragazzi, insomma, la finale di Coppa Italia era praticamente la Lazio, penso che abbia perduto contro una squadra che non so che è quella che ha vinto, quindi così, giusto. Vabbè, ma tanto tra poco li trovi tutti quanti al Gemelli, quindi, ma c'è un sacco di gente, cioè veramente, ragazzi, c'è un sacco di gente, cioè la cosa, vabbè, perché non c'è, vabbè, ragazzi, DVD. Che dire, siamo credo arrivati più o meno alla direttura d'arrivo. Sì. Non c'è una notizia questa... Star Trek per caso, tanto per arteriare... Sì, ce ne sono di notizie. Tantissime. David Tennant ha chiesto di partecipare a Star Trek. Ma bravo, però nel ruolo del dottore. Esatto. Fate atterrare in tardi. C'è stato il crossover fumettistico. Sì, nei fumetti, sì. Vabbè, ma non c'hanno una base canon, quelle robe lì, insomma. Niente, fra poco tempo inizia Discovery, quindi siamo qui in attesa. Il trailer Discovery. È uscito, insomma, il nuovo trailer. Dove non si capisce un cazzo come al solito, però va bene, cioè, tu che ci fai? È bello che non si capisce le cose. Beh, però ufficializza il fatto che si ricollega a quel corto di cui parlavamo l'anno scorso, no? Quello del Calypso. Esatto, okay. A Calypso, che insomma si ritrova anche quel personaggio. C'è Rizzard in chat che mi chiede: ma il coccodrillo dove sta? Il coccodrillo per chi? Considera, no, stasera non c'è il coccodrillo. È un po' sperimentale, quindi riprenderemo certi meccanismi nelle prossime settimane. Però c'è un aggiornamento qui dalla finale di Coppa Italia: la Lazio ha perso contro la Lazio. Ragazzi, è una cosa che mi dispiace. Incredibile. È una cosa incredibile. Solo quasi la Lazio. Quasi quantistica sta cosa, non è come Chuck Norris, solo Chuck Norris che può perdere con Chuck Norris. Evidentemente sono due rappresentative, che una magari ufficiale, una un po' meno, chi lo sa, va a sapere, insomma. Interessante, anche questi senza mascherine che si intervistano tutti col microfono, lo stesso microfono con il quale poi va a intervistare gli altri. Beh, ma il microfono non è che lo mando vicino alla bocca, capito, esatto, cioè, scusa, no, il microfono però è come il portatore sano de Covid per definizione, ma lo devi sempre leccare o baciare, insomma, perché se ma basta il respiro, cioè ci respiri sopra, ti stava, ma che cazzo dici, 10 centimetri da appiccica, mica c'è un aspirapolvere, pizzi, che ma cazzo, che cazzo dici, ma dove si è tenuta sta finale, Simone? Si è tenuta a Roma. Ragazzi, a proposito di respirare, a un campo sportivo ieri sera, visto che si parlava di cinema, ieri sera ho visto, non so se vi era già capitato, Doctor Sleep, il seguito di The Shining. Io ho evitato, ho letto il libro ma non ho voluto vedere il film. Com'è? Non avendo letto il libro, mi è sembrata un'operazione molto furba, nel senso che c'è un preludio e ovviamente un'introduzione e un poi un finale speculativi fatti apposta per ricollegarsi a Shining. Tutto quello che c'era in mezzo era un altro film, però mi ha lasciato un po' attonito questa trovata di tutta questa storia legata al vapore. Non so se nei libri si chiamava così. Sì. Che è l'essenza di questi personaggi di cui altri personaggi si nutrono, e lo fanno poi nel film in una maniera veramente che scade nel demenziale, con respirare la fiatella delle persone che stanno esalando gli ultimi respiri, se non quando addirittura non la conservi in una specie di thermos. E la situazione, insomma, secondo me se la sono giocata male in quel particolare, perché per il resto l'atmosfera era anche abbastanza furba, il film era fatto anche abbastanza bene tecnicamente e il richiamo a Shining poteva funzionare. Anche gli attori erano bravi, perché nel cast c'erano diversi attori decisamente bravi, azzeccati, però queste scene questa cosa del vapore che praticamente viene sprigionato da chi ha la luccicanza quando sta per morire, e ci sono questi personaggi, questi altri, diciamo, esseri che non saprei definire bene, non sono non morti, non sono soprannaturali, non si capisce bene cosa sono. Fatto sta che per non morire, non invecchiare, si devono respirare la fiatella di chi sta morendo e dà la luccicanza. Sì, ma senti, io quando me lo so letto il libro mi sono fatto una domanda. E cioè, ti sei dato una risposta poi? Sì, che è meglio che non mi vedo il film. Il problema è che a un certo punto della vita Stephen King ha deciso che doveva tipo dare un filo unico che ricollegasse tutti i libri, no? E questo filo unico è la serie della Torre Nera, sì. Diversi, eccetera, eccetera. Quelle creature che tu vedi lì, se ti sei letto gli altri N.000 romanzi di Stephen King che no, parlano, no, guarda, io ne ho letti alcuni, okay. Sto dietro, diciamo quelli recenti in cui più o meno in cui si capisce che pure It viene da un universo parallelo, vabbè, tutte queste cose così, capisci più o meno che cosa sono e perché fanno quello che fanno. Ma se ti sei letto il libro e ti sei letto gli altri, più o meno c'è un contesto e lo capisci. Nel film, buttato di botto senza senso, boh, così, senza senso, come dicevano i giocatori di Boris. Sì, il concetto è abbastanza similare, però ti ripeto, hanno cercato di strizzare un po' di più l'occhiolino al film di Shining il più possibile. In realtà vi devo dire non tanto. Però, sì, è chiaro, il film, se no, altrimenti non aveva né capo né coda, perché non bastava il solo discorso di recuperare il personaggio di Danny Torrance, insomma. Cioè, hanno cercato di chiudere la trama aperta da... Infatti, il problema probabilmente nasce dal fatto che che il film Doctor Sleep non si riaggancia a The Shining inteso come il libro di Stephen King, si aggancia più palesemente al film di Kubrick. C'è un gravissimo problema, perché Stephen King quel film lo brucierebbe col napalm. Però poi quando è uscito... Anche se è bellissimo. Quando è uscito Dr. Sleep, mi pare di aver letto che in qualche modo lui avesse anche riabilitato il film di Kubrick. Sì, ricordo perché di aver letto. Ne vuole girare un altro, cioè la fissa di King è che vorrebbe un film preso da Shining che sia aderente al libro. E in realtà il film di Kubrick sì e no, ma vabbè, quello non è un problema, perché neanche gli adattamenti di It in realtà sono molto fedeli, ci sono parti che sono state proprio massacrate, e io questo ve lo sto raccontando per sentito dire, perché io sono troppo cagasotto per vedere i film horror, tranne Shining. Però io ogni volta che leggo le interviste a King, soprattutto quando poi era uscito Doctor Sleep, ma ha continuato a menare merda su quel film proprio a secchiate. Mo si parla da un sacco di tempo che lui voglia far girare un nuovo Shining, ma chi se la sente di andare a fare il remake di un film che ha fatto Kubrick con del materiale che non è proprio il massimo, tutto sommato, quello del libro rispetto a quello che ha fatto Kubrick. Infatti King deve scrivere e basta, non deve avere giudizio sui film, perché non ci ha mai capito un cazzo dei poi, no, realtà, però, ragazzi, è vero che la maggior parte era pure produzioni del merda. Io la maggior parte sono adattamenti televisivi, ricordiamolo. L'unica roba di King che ho visto che veramente mi aveva un po' impressionato era quella della cittadina lì con i vampiri, Gerusalemme qualcosa, Jerusalem Slot, quello Salem. Ma guarda che alcune cose anche nel perimetro in cui li dobbiamo contestualizzare, quindi in quello delle produzioni televisive anche da quattro soldi, qualcosa di carino, cioè io mi ricordo i Langoliers che era carino, per esempio, ripeto, era una produzione televisiva da pochi soldi, però era anche abbastanza fedele al libro e si lasciava guardare. Scusate, vi ricordate come hanno tradotto in italiano il titolo? No, mi sta avvenendo. Il film in originale si chiama Who Made Who ed è preso da un racconto di Stephen King in cui le macchine diventano tipo cosce di automobili. Sì, sì, terribile. Quello lui l'ha diretto, faceva il regista Stephen King. E sta nel periodo in cui lui racconta che era drogato dalla mattina alla sera e non si ricorda che cazzo aveva combinato. Cioè, mo c'è un'intervista recente, venuta l'altro giorno, me l'avevano rilanciata su Facebook, in cui lui ha fatto un elenco di libri, dice: io questi li ho scritti quando stavo sotto coca e sotto alcol, se mi chiedete di ripetere una frase di questi libri con tutto che li ho scritti io non sono capace. E ci sono fior di libri suoi, tipo Cujo, La zona morta, la lunga marcia, quello che scrisse col nome di Bachman. Poi successivamente, siccome ha assunto una schiera di ghostwriter, non si ricorda manco quelli dopo perché non li ha scritti lui. Io sta cosa non ci credo tantissimo. Io però su una roba devo dare ragione a chi lo segue in maniera più approfondita di me, che c'è un King prima dell'incidente e un King dopo. Sì. Quello dopo è quello che ha deciso: io voglio l'universo narrativo mio, quindi la Torre Nera e la guida e tutto il resto lo colleghiamo. Il discorso è che non so da solo come possa fare a stare dietro quella produzione. Assicuro che Marco Gualdi trova sto discorso avvincente, vero Marco Gualdi? Moltissimo. Eppure tu le conoscevi queste cose. Sì, sono tanti spunti, infatti. Vabbè ragazzi, facciamo finta che tanto sono le 22:30, per cui ci fatta sta una certa e mettiamo una base per salutare. Sì, si è fatta una celtica. E va bene ragazzi, allora Francesco, volevamo salutare la chat, dicono che c'erano dei discorsi in ballo, io non ho seguito. Sì, quando si parlava dei microfoni, c'è qualcuno che diceva tipo Girasole che Michele, che i microfoni li sterilizzano ad ogni cambio di speaker. Io spero che facciano lo stesso anche con le pompe, con i glisteri in ospedale, quindi allora, si parlava di pompe, e meno male alla TV. Sì. C'è una lotta intestina tra chi dice Jerusalem Slot e chi dice Salem Slot. No, poi Salem, ho capito, no, Jerusalem Slot. Io dico Super Slot. Sì, però lo mettiamo Super Slot. Lui diceva fighissimo. Super Slot. Bellissimo Slot. Nel cuore, va bene. Questo era tutto. Ah sì, che Lazio A contro Lazio B. Vabbè, cazzate. Parlano di cazzi loro. Vabbè. Poi Rizzard ha appena scritto: buonanotte a tutti. Salutatemi i matteisti e i cavalli di Frisia. Non mancheremo. Salutiamo. Ah, quindi ho Gerusalemme. Oh, vaffanculo, vediamo che se è Gerusalemme o Salem Slot. Guarda che sono no, Gerusalemme. No, è lui che Gerusalemme dice: Gerusalemme fighissimo. No, è Salem Slot. Sì, ma fighissimo, ragazzi, questo errore. A volte ritorno. Ha detto: fighissimo questo errore. Che bello. D'ora in poi per me sarà. E l'ho letta così. Non so se cuciniere ci può confermare, ma tanto sta cucinando. Anche sti cazzi, io direi che ringrazio e saluto. Grazie. Carmine Buccio Consolla. Ciao. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ricordatevi, ore 21 su Runtime Radio, la puntata di Videoludica, la Next Gen della Poracitudine parte seconda, dove ci sarà anche. Ragazzi, sono andato a controllare Jerusalem Lot. Ah, raga, era Jerusalem Lot, me lo ricordavo. Su, dai. A volte ritornano. Marco Gualdi. E ciù pure a voi. Lo so, mi è partito. La professionalità galoppa sempre potente in noi. Walter Sbano. E niente, vi do appuntamento anch'io mercoledì, vado a riposare un po' l'ugola. Ciao ragazzi. L'ugola, benissimo. E poi Francesco, Lobby Frontali. Anch'io vado a riposare l'ugola di Bano, quindi anche io compro ai grandi magazzini, no? Perfetto, da me Simone Pizzi è tutto, ci vediamo lunedì prossimo, sempre ore 21, sempre tanto in radio, sempre OGM. Questo... dai che ce la puoi fare, dai ce la puoi fare, non me lo ricordo, stanno l'altrani, lo memorizzavo subito, stanno non riesco a memorizzare. Oscurantisti giuridicamente mal informati, ok, oscurantisti giuridicamente mal informati, ci vediamo informati e ci vediamo con la mia di Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.